soli nel mondo. Pasqua tra i monti. 32esima trasmissione dedicata agli emigrati. Resistono ancora le ultime piazze di neve ai margini del villaggio di Creulis, nell'Alta Carnia. Uno dei tanti, inerpicati e ripidi pendii dei monti, che gli uomini validi s'accingono ad abbandonare per recarsi nei paesi europei a fare la stagione, che tanti, già emigrati oltremare, sognano nell'alone della nostalgia. Un emigrato di questi, da 30 anni a Filadelfia negli Stati Uniti, è assurto a interprete e cantore del piccolo borgo di cui è innamorato, al punto di spargere un sacchetto di terra cleovana nella scia della nave che lo trasportava in America. Filo di Arianna che col vento della fortuna lo ricondurrà un giorno alla valle natia. Il gesto spiega il dono che i compaesani hanno voluto inviargli per Pasqua. Un artistico rame sbalzato che rappresenta due alpini nell'atto di difendere, come nel lontano 1916, il prossimo confine e di proteggere una donna intenta a trarre la lana dalla rocca nel focolare. Proaris et focis fu allora il motto degli alpini carnici. La donna, simbolo di tutte le donne della zona sotto la minaccia dell'invasione, eroina senza medaglia, salita fino alle trincee a sostenere i combattenti, con la gerla carica di munizioni, di viveri, di medicinali. Dure e spesso cruente vicende di ieri e dura vita di oggi a Creulis, dove, come vuole la tradizione inalterata, le campane vengono sostituite nella settimana santa da rudimentali strumenti di legno. La chiesa è in gramaglie. A tanta mestizia s'addice l'addio dell'emigrante di Ferdinando Primus, l'emigrato di Filadelfia. È il canto che ad ogni partenza, fosse pure di un isolato, l'organo e il coro diffondono dopo il viatico spirituale della messa nella chiesa di Santo Osvaldo di Creulis. D'affetti e senso pratico vanno insieme nelle quartine, sul metro e l'aria delle villotte. Oh Signore, dammi la grazia di tornare presso i miei cari, di allontanare ogni disgrazia, di aiutarmi negli affari. Sorgono le case, sudato risparmio degli emigranti, sopra un costone di ghiaie che franano. Oh Signore, dammi il coraggio distaccarmi dal paese. Tieni in me vivo quel raggio che esce dalle sue rovine. I partenti, accompagnati dalle loro donne, sono già a fondovalle, sopra il torrente e il ponte, vigilato da un Cristo di legno. Il distacco affidato a un saluto particolare, Bina Not, che non vuol dire buonanotte, ma che compendia una folla di sentimenti, apre sempre la via al pianto. Binanot, signor dal quin, dal mio cur na lagrimuta, avaio biel plan, lusin. Sabato Santo nella chiesa di Cleulis. Un popolo in preghiera s'intona al pastore di un docile gregge. Jacopo Tomadini sale ad incontrare la voce delle campane della Resurrezione. Tutte le campane della valle, tutte le campane della Carnia, di tutto il Friuli, fuse in un solo mistico concento. Sono le pievi antiche di secoli, le chiesette dal campanile a vela, in gara di esultanza. Anche la natura si ridesta a quel suono. Spuntano colchici e bucaneve, affiorano le trille. La gioia mitiga la tristezza delle partenze. Solennità della Pasqua. Il cielo s'apre in spiragli di azzurro, il sole illumina la dentata cerchia dei monti nevati, i cuori salutano la primavera che viene. Le donne hanno varcato la soglia della casa del Signore con cesti coperti di candide tovaglie. Sotto la focaccia, le uova colorate, il prosciutto, il capretto rosolato che la mano dell'officiante ha benedetto dall'altare. Perché quel cibo della Pasqua Santa si traduca in amore di famiglia, in attaccamento alla terra natia. Ce lo ripete Don Celso Morazzi, un sacerdote degli emigranti, che da 36 anni vive a Cleulis, pago del dovere cristianamente compiuto. Approfitti dal microfono per mandare un saluto a tutti i clevolans barniciati al mondo. Saluti che da Svizzera, Lussemburgo e Francia, che dal Canada, Brasile e Argentina, ma un saluto particolare mandi ai chiarissimi nostri emigrati di Filadelfia e dei Stati Uniti, ai quali devi tante riconoscenze pal ben che mi hanno sempre voluto e pal tan ben fatto al nostro paese, a nostre iglesie, che in grazie loro è diventata parrocchia. Voi riguardate, soprattutto, la mia Ferdinando Primus, il più illustre cittadino di Cleulis, che in patria e all'estero, con le opere, con i scritti, ha tenuto alte la nostra bandiera. A lui che sempre, prima in tutte le buone iniziative, alla ben meritata la stima e la fietta dei suoi compaesani. atmosfera di comprensione, di tenerezza, di sagra ad ogni ricorrenza della Pasqua, anche se le donne d'indomani accompagneranno i partenti, i bauli nelle gerle. Sui clivi, in località tradizionali, nella seconda festa pasquale, tutto il paese a consumare le merende all'aperto. Motivi che sanno le veglie invernali dei nonni, canti della fienagione nella piena estate, echi di sere festive sotto lo stellato. Cantano ora le voci stesse che in chiesa elevavano il gloria al Signore. La corifea. La schiantarina di Cleulis, prima di finire, asmande un saluto affettuoso a tutti quei che lontano da nostre vele chiarne ascoltare questa trasmissione, con l'augurio sincero che quest'ianz, queste usanze che hanno conosciuto e vivute una volta dal loro paese, astegni vivi dal loro cuore l'amore della loro patria lontana e la grazia di passare in Santa Paz le feste di Pasqua. È l'ultimo motivo che dice al partente. Sii fedele al tuo amore, che ti darà ancora un saluto nella piazza di Tolmezzo, del capoluogo della Carnia che vedeva e vede tuttora il commiato degli emigranti nei giorni che seguono la Pasqua. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Pasqua tra i monti, 32esima trasmissione dedicata agli emigrati, testo di Fino Ermacora, canti e musiche popolari.